get better. Hey Jude, don't be afraid. In assoluto uno dei pezzi più lunghi composti dalla formazione dei Beatles. Hanno scritto da Paul McCartney, perché qualcuno mi dice di dare un po' di aneddoti legati a questa canzone. Fu scritta da Paul McCartney per l'album The Beatles, meglio conosciuto come il White Album, ma poi venduta come singolo nel 68 e infine pubblicata sulla raccolta Hey Jude. E nonostante il fatto che sia lunghissima, over 6 minuti, ma oltre 7 minuti, oltre 6, sfiora i 7 minuti, è stata nelle classifiche di vendita americane e inglesi a livello di singoli per tantissimo tempo. Il titolo originale era Hey Jules. In effetti fu scritta da McCartney per confortare Julian, il figlio di Lennon, nel momento del divorzio tra il padre e Cynthia Powell. Fu registrata nei famosissimi Abbey Road Studios. Saluto Claudia che dice: Hey Jude è tra le mie preferite. Un salutone anche al nostro amico che non si firma, ma lo capisco, perché dice: è riuscito a mandare questo SMS nonostante il fatto che mi poteva capitare di tutto, mi è toccata una gomma bucata sotto il cielo piovoso di Firenze. Mi serve un saluto di conforto dalla radio che mi sta tenendo compagnia mentre lavoro con il Cric. Quindi continua, magari adesso sei riuscito già a sostituirla. Buona giornata e un saluto anche a Minti, a Nino, a Bonnie, a Fefo e tantissimi altri, a Glenny. Mi chiede se qualche volta capitiamo anche noi in chat, ma forse la Claudia. Io da questa postazione non riesco nemmeno ad aprirla e utilizzo molto più velocissimamente l'urlo box. Detto questo, 11:36 minuti primi, siamo entrati veramente negli ultimi 30 minuti di questa giornata di martedì 20 maggio. In arrivo per voi le note di Buddy Holly, The Wizard. chi? In the UK, naturalmente loro, Sex Pistols. Diamo il via allo spazio SMS per vincere gli ultimi due biglietti per il concerto di domani, Alcatraz di Milano, Tarja Turunen, ex cantante dei Nightwish, con il suo spettacolo o con le canzoni del suo album solista e sicuramente anche brani legati alla formazione dei Nightwish. 335-100-7777, basta scrivere il vostro nome e cognome per vincere gli ultimi due biglietti. All'invio dei vostri SMS abbiamo così anche regalato gli ultimi che sono se li sono aggiudicati Mauro ed Eva. Un saluto anche al Brutus, Andrea il gommaio, che a questo punto ha quasi finito di togliere la gomma, ci fa sapere, questo ci fa piacere naturalmente. Siamo quasi agli sgoccioli, il tempo di gustarci altre due ottime interpretazioni. La prima questa Godless versione acustica per UPO e poi Time per Pink Floyd. Checking into leaving, yeah, I'm folding. I'm tired of breaking down and shaking this life around. I'm tired of praying, yeah, I'm tired of trying myself. I'm tired of being taken all the way. Still gotta breathe, oh yeah, like my shameless logger down. God damn me, that's for sure, and I believe I don't belong here. And I don't need to get my head kicked in. And I don't need to be another lost soul who can't find home. And I face dragged down in a muddy water. And I don't need to say I'm godless anymore. Oh yeah, not anymore. Still I'm on the break of the air.